voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese, terza puntata. Quando mi alzai non vidi nulla e avrei voluto essere solo. La finestra era appena più chiara del resto. Misi la mano sulla fronte di Linda e rimasi seduto. «Qualche cosa non va?» disse lei senza muoversi. Le diedi un bacio e mi rimisi disteso. Dopo un poco sentiamo Lili che ci chiama. C'era Lubrani dentro il bagno che sputava e sudava. Non stava dritto e si afferrava al lavandino. E Lili non riusciva a tenerlo. Anche là c'era vetro e maioliche e luci. Dissi a Lili: questo bestione è un'ingiustizia. Lei mi guardò con la faccia stupita, nemmeno se l'ignorante fossi io. Ma poi ridemmo e gli ficcammo il testone nell'acqua. È finito, Lili uscì dal bagno col suo passo di ballo. Lasciai Lubrani seduto sul cesso che fissava per terra e inghiottiva e ritornammo nella stanza. Linda disse: stiamo un poco a fumare. Non conoscevo più la stanza nella luce. Mi pareva di essere stato chissà dove, e Lili che fumava, Linda che stava zitta, i bicchieri rovesciati sul vetro. Tutto era diverso. Senza volerlo guardavo di sfuggita il sofà, quei cuscini buttati, le gambe di Linda. Nessuno parlava. Lili disse: viene giorno. Dammi da bere, disse Linda. Io mi sentivo nella bocca il suo sapore. Senza dir nulla presi un sorso, poi le tesi il bicchiere. Lei mi guardò con occhi scuri, se la rise da sola e bevette. Non era giorno, ma era tardi. Sentimmo sbattere una porta e un grosso passo e comparve Lubrani. Era tutto imbrodato, si appoggiava alla porta. Ci guardò con gli occhietti cattivi. Lili buttò la sigaretta, Lubrani ruttava, dondolò nella stanza e finalmente arrivò una poltrona. Bisogna lasciarlo dormire. Allora Linda saltò in piedi e disse a me: tu accompagna Lili, lo metto a letto e vado a casa, sto a due passi. Lili non voleva saperne. Andiamo tutti, c'è solo una chiave. Resta anche tu, le disse Linda, domani vai dritta al negozio. Allora dissi: fate ridere, è soltanto ubriaco, si sveglia domani. Uscimmo insieme sotto i portici vuoti. Linda venne con noi per due isolati, si sentivano i passi sul lastrico. Poi disse: ci sono. Se ne andò nella nebbia. Io presi Lili sotto braccio. Andammo un pezzo senza dire una parola. Traversammo i giardini, traversammo la Dora. Com'è? Disse infine Lili. Lui che ha la macchina è già a casa e a noi ci tocca camminare. Non era mica scema Lili. Veniva saltellando e capiva perché stavo zitto. Capiva perfino che volevo star solo. Si fermò e disse: senta, non si incontra nessuno. Sono avvezza di notte. Andiamo avanti, dissi duro. Poi scherzammo e parlammo di Linda. Lili l'aveva conosciuta al paradiso. Non mi disse con chi e non glielo chiesi. Ero troppo intontito, la lasciavo discorrere. Ma le chiesi perché andava così, da sola, sul ballo. Perché vado? Mi disse stupita. Se le piaceva proprio tanto ubriacarsi con Lubrani. E domani il negozio, le dissi. E dormire? Lili saltava e mi teneva stretto il braccio. Avrò tempo a dormire da vecchia. Così arrivammo al capolinea. Era quasi nei prati. Lili guardò in su e disse grazie. Non è la casa di Lubrani, si capisce. Fra due ore mattino, le dissi. Se fosse stata stagione, facevo il mattino in quei prati. Ero contento di essere solo e avevo sonno. Camminai per mezz'ora e incontrai soltanto carri. Si sentivano nella nebbia, poi compariva la lucerna a fior di strada. Camminando pensavo: nessuno direbbe che è successo stanotte. Non ci dovevo più pensare. Mi venne in mente se nel buio fosse stata Lili. Finì la notte nel caffè della stazione. Tutte le strade erano vuote. Non c'era di aperto che quello. Qui la nebbia era il vapore della macchina espresso. e un odore più freddo che veniva da fuori. Era odore di carbone e di treni. Dio, mi piaceva in quel mattino. Tutti dormivano, anche Linda. Guardavo i vetri e la tettoia aperta dove doveva uscire il chiaro. Se avessi avuto la chitarra. Quando fu giorno andai da Amelio, altro da fare fino a sera non avevo. Ci andai per dirgli tutto quanto e stare in pace. Mi ficcai per le scale, trovai chiuso. Venne ad aprirmi la madre. Io pensavo, se ci sento il profumo di Linda è finita. La madre usciva e disse brusca, ce n'è un altro. Allora Amelio la chiamò, si parlarono dalla cucina e lei, dice di entrare, mi disse. Era più presto quel mattino, la vecchia uscì tirando l'uscio. Nella stanza sul letto d'Amelio era seduta una ragazza magrolina. Aveva un brutto impermeabile e un berretto alla basca. Non era un tipo da farci l'amore. Sembrava di quelle che trottano alla scuola serale. Mi guardò chiudendo gli occhi senza muoversi e anche Amelio, appoggiato al cuscino, disse appena sei tu. Feci finta di ridere e dissi vi lascio tranquilli. La finestra era chiusa, le coperte in disordine, i giornali dappertutto e per terra. La ragazza aveva in mano dei fogli di carta. C'era un odore di letto. Bevi sempre, gli dissi. Amelio fece, caso strano, una risata, ma solo il gesto della faccia, non la voce. Mi chiese hai dormito stanotte? Si vede, dissi, e se non fosse stata l'altra, era il momento che potevo dirgli tutto. Forse qualcosa avrei cambiato, chissà. Forse avrebbe scrollato le spalle. Forse sarebbe stato zitto. Io al suo posto non so. Ma lui mi guardava con quell'aria affamata e sapevo che Linda non era più tornata a trovarlo. La ragazza dal basco aspettava guardandosi le unghie. Mi venne in mente la chitarra e se Amelio l'avrebbe ascoltata, non potevo guardarlo. Dissi allora, ho girato Torino stanotte, vengo dalla stazione. Ho conosciuto una ragazza che profuma i cani e li pettina. Siamo andati in collina. Non dicevano niente. La ragazza si mangiava un'unghia. Anche Amelio aspettava. Ho conosciuto un ignorante che gli è scappata la moglie e lui paga da bere ma non da mangiare. Ha la lancia. E tu, quando è che esci dal letto? Vuoi fumare? Mi guardavano sempre. Allora dissi, vi lascio tranquilli. Va a dormire, poi fumi, mi disse Amelio. La ragazza era lì per alzarsi, sembrava una scolara, ma vidi Amelio farle segno e lei restò. In cucina mi parve di sentirmi chiamare, ma era Amelio che parlava con l'altra. Sentii chiudermi l'uscio alle spalle. Poi in negozio ci fu discussione con mamma e sorelle. Era toccato a Carlottina stare al banco. Ce l'avevano su per quella notte. Carlottina sapeva che ero andato a ballare, con chi? Non le risposi e mi buttai sul letto. Linda quella sera venne al caffè. Non mi chiese se avevo dormito, non chiese niente, fumava all'angolo. Guardava me come guardava il fumo. Quando le dissi di ascoltarmi non si mosse, lasciò che parlassi. Guardava il fumo e mi ascoltò fino alla fine. Non ti basta che siamo state insieme, disse. Voglio fare quattrini. Non sei nato per fare quattrini. Nella vita che faccio, le dissi, ho bisogno di molti quattrini. Se cercassi quattrini, mi disse, ti basterebbe il negozio. Tu non cerchi quattrini. Che cosa cerco? Allora Linda alzò le spalle con quel broncio che sapeva far lei. Cosa hai fatto quest'oggi? Mi chiese tranquilla. Amelio, dissi, era capace di fare quattrini? Lascialo stare, disse Linda. Sono andato a trovarlo. Allora Linda mi guardò. Sta meglio? Alzai le spalle. Sono andato stanotte rientrando. Linda schiacciò la sigaretta e disse adagio, perché fai queste cose? Le presi la mano. Non questa notte, stamattina, dissi. C'era gente con lui. Gliel'hai detto? Strinsi la mano e dissi no. Volevi dirglielo? Non so, risposi. Non so che cosa dovrei dirgli. Lui di te non mi parla. Tu non mi hai detto se vi siete mai toccati. Se mi avesse toccata, disse Linda guardandomi, cambierebbe qualcosa? Allora feci come lei, dissi, che cosa? Linda guardò un momento il tavolo, poi disse brusca, andiamo via. Dopo un po' ci sedemmo in un altro caffè. Perché mi dicevi che non so far quattrini? Perché non li fai? Basta darsi a un lavoro. Un lavoro non basta, ci vuole passione. Non voglio mica diventare milionario. mi basta portarti a ballare. Lo vedi che non cerchi i quattrini? Sono stufo della vita che faccio, le dissi. Vorrei anch'io una moto e girare con te. Vuoi buttarmi in un fosso? Mi guardò con quell'aria. Tu hai la chitarra, disse. Perché non provi a suonare in orchestra? Come dirlo? Non mi intendo di musica, disse. Non so cantare né suonare, ma tu sei Pablo e tutti dicono che sei nato per questo. Quella sera non andammo a ballare. Parlammo invece della notte prima e di Lili che al paradiso andava sola. Quella i quattrini li farebbe, disse Linda, se potesse. Le scarpette da ballo le ha carine. Quella non mangia per comprarsi le scarpette. E allora le chiesi perché tra ragazze si odiavano tanto. Linda rideva e disse svelta: sai anche le scarpette che porta? Vi siete baciati? Le somigli, diceva. Cerchi anche tu di far fortuna. Mi venne in mente l'anno prima che passavo le sere a girare con gli altri, poi cantare all'osteria. Cos'è un uomo? Dicevo. Quanto tempo è passato? E sembra ieri. Cos'hai da ridere? Mi chiese Linda. Pensa a quel che direbbero quelli del corso se facessi fortuna. Una fortuna l'hai già avuta, disse Linda. Ci guardammo. Non ti basta? È la stessa cosa, dissi. Vengono insieme queste cose. Questa mattina alla stazione ero contento. Non sarei più rientrato a casa. Linda disse: ti monti la testa. Poi disse: in quanti posti sei andato stamattina? Lo sai chi c'era, dissi allora, stamattina. Sei tu che gli mandi le donne? Che donne? Le raccontai la ragazza del Basco. Linda scosse le spalle. Sono i pasticci che a meglio combina. Lascia perdere. Era brutta. Linda mi disse: vuoi che usciamo? Allora uscimmo. Per la strada mi disse: stringimi il braccio che fa freddo. Così andavamo, stretti stretti, e le parlavo nei capelli. Andiamo ancora in qualche posto, dicevo. Linda taceva, mi stringeva il braccio. Camminavi così con la bionda, disse. Io cercavo di fare i passetti perché quella strada durasse di più. Poi fummo in piazza e si fermò. Andiamo ancora in qualche posto, dissi piano. Linda disse: non sai dove sto? Se mi prometti di andartene subito, vieni a trovarmi. Così salimmo con la scala e avevo il sangue che batteva. La baciai molte volte, ci fermammo nel buio. Lei disse: saliamo. Aprì la luce in una grande anticamera vuota. C'era odore di stoffa e soltanto un armadio. Qui di giorno lavora la sartoria, mi disse. Spense la luce e dalla vetrata in fondo venne il riflesso leggero dei lampioni. Vivo in una stanza che è come una scatola. Traversammo la lunga anticamera buia e aprì una porta e accese dentro. Entrai, dopo di lei. Quella notte mi disse che bisogna essere calmi e non dipendere dagli altri, da nessuno. Dunque vedi, le dissi. Madre e sorelle sono un'altra cosa, disse lei. Non bisogna montarsi la testa. E mi disse che Amelio era un uomo che mai si montava la testa, per questo era riuscito a farsi la moto. Si può anche ubriacarsi, mi disse. Si può andare dovunque, ma poi se hai casa, torna a casa. Tu hai la chitarra, diceva, e il negozio. Vale la pena, le dissi. Vedi che Amelio ha perso tutto. Lascialo stare, tu non sai chi sia, diceva. Amelio è in gamba, sta tranquillo, ma nemmeno con lui devi montarti la testa. Non deve farti pena. Io le chiesi perché non voleva ammettere che era stata la ragazza di Amelio. Perché no, mi rispose. Stavamo insieme, ma eravamo come adesso. Gli hai veduto che gambe ha adesso? Linda mi strinse con le braccia e non parlò. Dissi piano: è venuto qui da te anche lui? Se ne fan tante, disse Linda. Credi che lui, se fosse in te, ci penserebbe? Poi mi diede anche il tè, che scaldò sulla piccola stufa. Era l'unica luce nella stanza, quel riflesso rosso della stufa. Quando uscii non accese la luce, mi abbracciò sulla porta e disse piano: domani al caffè. Anche stavolta era mattina, non si vedevano ancora i tram, ma si sentivano lontano. Faceva un freddo da montagna, i lampioni ballavano al vento. Guardando la Torre Littoria pensavo a quell'altro e se gli era passata. Forse si era di nuovo sbronzato. Quante cose succedevano in quei palazzi. A quest'ora anche Linda si era addormentata. Così contento non sarò mai più, gridai tra me, come parlassi. ma la piazza era vuota e avrei potuto anche urlare. Alla stazione non ci andai stavolta, c'era un caffè già mezzo aperto in via Milano, mi ficcai dentro. Avevo sonno, ma era bello fumare pensando a stanotte. Presi del latte per scaldarmi e sostenermi, poi ci misi un grappino. Cosa c'è di diverso, pensavo, da quando eravamo ragazzi? C'è che si gira e che la casa è dappertutto e in nessun luogo come al catechismo. C'è che adesso si beve il grappino, ma il latte è ancora quello. Chissà se a Linda piace il latte. Poi pensavo che Linda, come tutte le donne, doveva averci il latte dentro. Mi venne in mente che il bambino succhia il latte di una mamma che ha fatto l'amore. E che strilli se non gliene danno. Me la ridevo in quel caffè. Poi entrarono facce bruciacchiate dal freddo. Una donna, due donne dal grembialone di cuoio, verduriere dei banchi, che anche loro prendevano grappini o il caffè con la branda. Un facchino, dei pezzenti che battevano i piedi. Erano facce, come tante del corso. Cominciò a far chiaro. Andando a casa ripensavo a quelle facce. Chi lavora e chi no, dicevo. Serve a qualcosa lavorare quando un facchino e un miserabile qualunque hanno alla fine l'identica faccia. Tra chi non sa dove dormire e chi va in piazza avanti giorno non c'è una grossa differenza. Hanno i geloni tutti e due. Sta a vedere che ha ragione Linda, dicevo. Non sono nato per fare quattrini. In fondo al corso si vedeva la montagna, ma Linda dormiva, in montagna c'era andata con Amelio quella notte così fredda che c'era solo la chitarra e si scaldavano le mani con la grappa. Avevo freddo a camminare. Siccome tagliavo davanti alle nuove, mi ricordo che diedi un'occhiata a quei muri pesanti e dicevo: chissà se le celle le scaldano. Poi ti vedo un furgone davanti al cancello e quei tali che aprivano. Quasi quasi fui lì per fermarmi. Non avevo mai visto andare dentro. Quante cose succedono. Metton dentro anche a quest'ora, pensai, fino a casa. Chissà se in prigione si può bere del latte. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.